Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. L'efficienza energetica si ripaga da sola, questo è quanto andiamo ripetendo da tempo qui a Mr. Kilowatt, naturalmente convinti che non si tratti di un luogo comune o di un'affermazione buonista, questo termine oggi va molto di moda, ma di un dato di fatto inequivocabile. Altra cosa però è riuscire a mettere a confronto tra loro le molte alternative che esistono per fare efficienza energetica, per stabilire quali misure sono le più efficaci in termini appunto di costi e benefici. A fare questo naturalmente qualcuno ci ha pensato, per fortuna qualcuno ci ha pensato, e ci ha pensato nello specifico l'RSE, l'agenzia diciamo di ricerca sul sistema energetico, che fa riferimento al gestore dei servizi energetici e che appunto si occupa di ricerca e sviluppo, ed è in linea con noi proprio il presidente dell'RSE, Pier Giuseppe Maranesi, che saluto. Buonasera Maranesi. Buonasera, buonasera ai suoi ascoltatori. Dunque Maranesi, voi avete messo a confronto varie tecnologie, le chiedo quali sono queste tecnologie che avete confrontato fra loro e su che base le avete confrontate, quali sono gli elementi che avete preso in considerazione per fare questo confronto? Noi abbiamo fatto delle valutazioni di profittabilità su un certo numero di tecnologie, non tutte, ma un novero abbastanza significativo. Per esempio, nel campo degli elettrodomestici abbiamo preso in esame frigoriferi, biancheria, lavastoviglie, scaldacqua, confrontando diciamo, il costo di uno strumento con delle buone caratteristiche rispetto all'efficienza energetica con un equivalente strumento che svolge la stessa funzione che queste caratteristiche non ha. Per esempio nel caso delle lavastoviglie, noi abbiamo valutato in quanto tempo un investimento in una lavastoviglie di tipo A anziché in una di tipo B viene ammortizzato da chi fa questo acquisto, e abbiamo rapportato questo tempo di ritorno dell'investimento con la vita tecnica dell'apparecchiatura. Perfetto, perfetto. Quindi insomma lei dice se quei 100 euro in più che io spendo per comprare una lavastoviglie, in questo caso in classe A, mi producono efficienza per 5, 10 o 20 anni a secondo della vita dell'oggetto in questione, non è la stessa cosa, è importante tenere conto di questo aspetto. Chiaro che ho fatto il ritorno dell'investimento si ha in 2-3 anni, mentre la durata della lavastoviglie è di 15. E quindi chiaramente si tratta di una operazione vantaggiosa indiscutibilmente. E poi voi avete preso in considerazione, vedo qui, climatizzazione, sostituzione degli infissi, illuminazione, poi cos'altro, motori e inverter, qui siamo nel campo industriale, la cogenerazione e così via. Ecco, che cosa viene fuori? Perché qui ci troviamo tecnologie diverse, anche molto lontane tra loro, le automobili messe a confronto in qualche modo con gli infissi, su una base di confronto che però è la stessa, quindi questo confronto lo possiamo effettivamente fare. Che cosa viene fuori? Che cosa impariamo dai dati che avete trovato? Prescindendo da ogni incentivo, sì, nella stragrande maggioranza dei casi il tempo di ritorno dell'investimento è significativamente inferiore alla vita tecnica dell'apparecchiatura considerata. Quindi è proprio vero che l'efficienza energetica si ripaga da sola, nella stragrande maggioranza dei casi. Quali sono quelli più come dire, evidenti, quelli più forti, e anche invece quelli in cui questo non avviene? Dunque, prima citavo il caso della lavastoviglie, lì l'evidenza è palese, così pure nel caso per esempio di un frigorifero A+ rispetto a un frigorifero di tipo A. Ci sono in ambiti diciamo meno comuni tra i consumatori, per esempio motori elettrici, abbiamo preso in esame motori di una certa tipologia, 15 kW. Quindi industriali, sì. Sì, confrontanti tra una classe superiore e una invece a minore efficienza energetica, non sto a entrare nei dettagli, no, certo. È emerso un notevole vantaggio, così pure negli inverter. Sì. di cui abbiamo parlato tante volte qui a Mr. Kilowatt, sono come dei, diciamo, servono a controllare il numero di giri dei motori elettrici. Anche qui non possiamo entrare nei dettagli, ma anche qui è incredibile veramente quanto sia economicamente conveniente fare questo, che vero? Nel campo dell'illuminazione, sia industriale che pubblica, sono palesi questi vantaggi. Cioè i tempi di ritorno del maggior investimento rispetto alla durata dell'investimento stesso, che fanno eccezione, diciamo, sono due situazioni abbastanza note ai consumatori: gli interventi su edifici a livello finestre, sì, e le caldaie a condensazione, riferite naturalmente a una eguale soluzione basata su una caldaia moderna ma convenzionale, non a condensazione. Insomma, una finestra normale rispetto a una molto efficiente, una caldaia normale rispetto a una condensazione, come dire? Nel primo caso un ritorno dell'investimento che va a 35 anni, mentre è stata stimata in 30 anni la vita delle finestre di un infisso. Quindi qui in teoria non avrebbe senso intervenire. Se la finestra cade a pezzi, sì, è chiaro che va sostituita, no? Stiamo parlando appunto di un confronto tra una finestra normale e una ad alta efficienza. Altrimenti non converrebbe, qui ci vogliono proprio gli incentivi. Noi dobbiamo fermarci qui perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ma torneremo su questo argomento perché la vostra indagine è ancora più approfondita di quanto non abbiamo avuto il tempo di spiegare finora. Grazie Maranesi. Grazie e buonasera. È tutto, a domani.